berlinese, adesso c'è solo questa foto qua, e poi una foto del David di oggi, ormai quasi settantenne, che nuovamente si riflette in uno specchio. E ho detto, ecco, questa, cioè l'avevo sotto gli occhi qua alla fine la risposta che cercavo. Cioè questo elemento di una ricerca di David Bowie di trovare la propria identità, questa identità che abbiamo detto che è così mutevole, così sfuggente, che è stata ricercata per tutta la vita, nel riflesso di qualcos'altro. Allora ho detto, bene, potrei iniziare questa serata sottolineando questo elemento del Bowie che cerca nello specchio e anche nello specchio dell'altra persona, di colui che gli sta di fronte, un qualcosa che è dentro se stesso. Cioè questa ricerca continua del sé in Bowie che percorre tutta la sua vita. Allora, il primo specchio con cui Bowie si confronta, Bowie, poi le pronunce qui pare che siano corrette tutte e due. Il primo specchio con cui Bowie si confronta è il fratello, ma lo vediamo in un secondo momento, perché il rapporto con il fratello è un rapporto estremamente delicato e estremamente importante, che segnerà fortemente David. Il fratello è in realtà un fratellastro che ha 10 anni più di lui, quindi quando Bowie è appena adolescente, 14-15 anni, il fratello ha 24-25 anni, quindi lo inizia in qualche modo alla scoperta della musica, alla scoperta della letteratura, dei poeti della Big Generation. Sarà lui che lo inizierà e lo porterà a scoprire la lettura di Kerouac, di Ginsberg, insomma tutti i grandi poeti della Big Generation, di cui Bowie si innamorerà perdutamente in quel periodo. E quindi è un rapporto, quello con il fratello, che lo segna profondamente. Il motivo di questo essere così segnato dal rapporto col fratello è che il fratello è malato, è molto malato da un punto di vista psichiatrico. Soffrirà, non so, io non è che sono un dottore, ma probabilmente di una sorta di schizofrenia, e Bowie naturalmente ne risentirà molto di questo elemento, anche perché c'è un ceppo, diciamo così, da parte della madre, che non è solo il fratello che è malato di schizofrenia, ma pare che anche delle zie, insomma c'è tutta una dinastia, diciamo così, dalla parte della mamma, che soffre di forti turbe mentali. E Bowie rimane molto, il giovane Bowie rimane molto colpito da questo elemento. Ovviamente il fratello che lui adorava, piano piano verrà rinchiuso poi in un manicomio, insomma la storia è abbastanza, piuttosto triste. E quindi il primo specchio in cui Bowie ricerca se stesso e il fratello, no? E in quegli anni, siamo negli anni 65-66, insomma il giovane Bowie cerca di fuggire da casa, lui vive in una famiglia medio borghese, insomma la madre, non so se mi sbaglio, ma credo facesse l'infermiera, il babbo forse era impiegato o qualcosa del genere. Scopre in quegli anni, attraverso il fratello che lo porta a vedere i concerti, che gli fa scoprire la letteratura americana di cui lui si innamora follemente, scopre naturalmente la musica, il rock and roll, accende la radio, questo giovane ragazzo inglese che non conosce niente del mondo che lo circonda, in un'Inghilterra abbastanza decadente o decaduta, un impero naturalmente quello inglese che era completamente decaduto, anche se cercavano di tenerlo con i denti, e scopre il rock and roll, scopre Elvis Presley, scopre Little Richard attraverso le radio, soprattutto Radio Lussemburgo, queste radio, no, che all'epoca sono diventate poi leggendarie. E inizia quindi ad appassionarsi alla musica e a voler diventare un musicista. Inizia come tutti, la storia sembra uguale per tutti, inizia a scuola pure con degli amici a fare dei gruppetti, quella, senza niente di che in realtà. Però arriva alla fine di un certo percorso, intorno al 1967, a riuscire a produrre un disco che non ascoltiamo, che obiettivamente è una delle cose più brutte che si possa. No, è brutto. No. No, in realtà non è. È un Bowie molto acerbo, molto alla ricerca appunto di una, di un'identità che ancora gli sfugge, di una, di una, di una caratura artistica che ancora non ha nelle mani, non ha le corde, non ha nelle corde. Un disco, lui è, si appassiona a quel periodo ai mods. Possiamo un po' vedere le foto, la 1, la 2? Questo è il Bowie di quegli anni, vediamo. No, no, sopra. Ecco questo. Questo è il Bowie che incide il primo disco per la Deram nel 67, un disco che porta il suo stesso nome, David Bowie, che sono canzoni molto legate al rhythm and blues, legate ad una tradizione molto inglese delle filastrocche. C'è questo rapporto sul mondo delle filastrocche, delle canzoni per bambini, che lo perseguiterà, no, lo perseguiterà, cioè lui si porterà dietro per molto tempo. Un disco non a fuoco, insomma, un disco che avrà venduto, non so, 3 copie, l'ha comprato lui, la sua mamma e il suo papà, e forse il suo fratello nei momenti di lucidità. Però questo primo disco, che soltanto i patiti di Bowie hanno a casa, e gli altri lo possono anche lasciare negli scaffali dei dischi, questo primo disco gli dà la possibilità di incontrare un personaggio, un nuovo specchio, dove lui può finalmente confrontarsi nuovamente e ricercare una delle sue mille identità, no? Una delle mille maschere che gli stanno dentro l'anima, ed è Lindsey Kemp. Lindsey Kemp è un personaggio che all'epoca girava in questi teatri d'avanguardia, molto underground della Londra dell'epoca, e si era innamorato di una delle canzoncine di Bowie e l'aveva portata in un suo spettacolo. Bowie naturalmente viene a sapere di questa storia, va allo spettacolo dove c'è la sua canzone, dice: meno male c'è qualcuno che gli piace, gli piace la mia canzone, e naturalmente incontra questo Lindsey Kemp, questo attore mimo, molto coreografo, insomma, molto particolare, molto, molto off, si potrebbe dire, no? E entra nella compagnia teatrale di Lindsey Kemp, partecipa ad alcune rappresentazioni teatrali con Lindsey Kemp, e inizia ad avere da questo straordinario personaggio, che io ho visto diverse volte, insomma, negli anni 80 è venuto molte volte a Lucca o piuttosto che nelle zone qui della Versilia, eccetera, in qualche modo lo inizia al mondo del teatro, che è il mondo di David Bowie, in qualche modo. Sì, ciao. Bowie non solo poi dopo in età molto più avanti farà l'attore, lo sappiamo tutti, ha fatto diversi film, ha fatto teatro, un teatro anche abbastanza importante, ma ha sempre avuto questa indola dell'attore. C'è un disco che poi vedremo che si chiama Hunky Dory, dove nel retro di copertina lui si firma The Actor, l'attore, cioè non è che si firma David Bowie, si firma l'attore. Proprio Lindsey Kemp riesce a tirare fuori in qualche modo i rudimenti in questo giovane ragazzo di questa vena attoriale, diciamo così, che è una delle caratteristiche di David Bowie. Non possiamo prescindere da questo elemento di David Bowie per capire il mondo e l'arte di Bowie, no? È un attore in tutti i sensi. Allora, ho trovato, spulciando su internet, un video dell'epoca in cui Bowie, mi raccomando, mantenete un certo contegno, si presenta insieme a Lindsey Kemp in questa rappresentazione di Arlecchino e Colombina, una cosa così. Lui cantava 3 canzoni scritte appositamente per questa opera teatrale molto underground. La vediamo e poi dopo ne riparliamo 2 minuti e poi andiamo avanti con... E quindi è... Aspetta, scusa. È il numero 1, sì, il video numero 1. Heavenly Firo, we love you. Heavenly Firo loves us too. Pockets of gladness, gay time eyes. comical hero, just when he's zero. Questo è Lizzy Hands. Happy little feet that dance all day. Lonely little heart with lots to say. Stepping footprints on your mind, offering thoughts of color mine. Questo è il nostro come and blow the bugle call. Hero takes the stage to play for all. For here's a life his fortune rules, forsaken by his Columbine. Vero, we love you, Trapani Vero loves us too. Pockets of gladness, gay time eyes, comical hero, Trapani Vero. The tapestry to greet dear Harlequin. The hearts of both so keenly hard to win. A patchwork frame of tears and wine, the nectar for cruel Columbine. A party free and leave the stage forlorn. Puppets gold, their faces sad and drawn. Relive each trial of rise and fall, the love which lacks between us all. Trapani Vero, we love allora, you. Questo è quanto? No, io ora apro una parentesi personale. Quando ero un ragazzo che ho scoperto Bowie, e si leggeva di queste cose, di questo incontro fra Bowie e Lindsay Kemp, no? Questo grande mimo, questo grande attore così d'avanguardia, e mi ero fatto chissà quale mondo, no? di chissà quale incontro fra giganti fosse stato questo fra Bowie e Lindsay Kemp, no? Che poi dopo l'ho visto, come ho detto prima, così. Poi l'altro giorno, quando cercavo, vedo questa cosa qui, e come ha detto Carla, dice, sembra la televisione. Sembra la televisione. Però è un incontro importante. Ora, al di là del fatto che no, possiamo riderci sopra, insomma, non è che sia chissà quale grande impresa attoriale da parte di David Bowie, che canta appunto queste canzoncine, posso dire ridicole, mi si passi il termine, no? Però è un incontro importante perché attraverso Lindsay Kemp Bowie entra in contatto con un mondo finalmente nuovo, riesce finalmente a sganciarsi un po' dalla famiglia, ad entrare in questo mondo. Lindsay Kemp aveva appunto una compagnia d'arte, una compagnia di teatro, di ballo, eccetera eccetera, e intorno a Lindsay Kemp ruotava un mondo, una fauna molto particolare, fatta di attori o presunti tali, di un mondo fatto di omosessualità, insomma, di ragazzi e di ragazze che chiamavano truccarsi pesantemente, anche un mondo, una sorta di corte intorno a questo Lindsay Kemp, un po' una corte che poteva ricordare in maniera molto più ridotta la corte che stava intorno a Andy Warhol, no? Insomma, questo mondo, questa fauna che stava intorno a questo Andy Warhol. Però a David Bowie serve per uscire dal guscio materno, dal guscio di casa, lui che sognava appunto di uscire di casa e di andare nel punto, nel centro del mondo. Il problema è che nel centro del mondo ci stava già, cioè lui è nato a Londra e quindi doveva uscire di casa e prendere il pullman per andare nel centro del mondo, quindi la sera ritornava a casa in realtà. Però ecco, questo incontro con Lindsay Kemp, che durò, non è che ha durato moltissimo, poi dopo però con Lindsay Kemp farà uno degli spettacoli più belli all'epoca di Ziggy Stardust, e le scorribande con il fratello appunto più grande di 10 anni, qui naturalmente Bowie insomma, non ha più 15-16 anni ma qualche anno in più, lo portano ad aprirsi sempre di più verso il mondo dell'arte, verso il mondo della musica, verso il mondo del teatro e del cinema che lui così e della letteratura che lui così tanto amava. Bowie ha questa caratteristica di essere sempre un uomo in corsa, no? Alla ricerca, come dicevo prima, di un'identità che gli sfugge sempre o che pare in qualche modo scivolargli di mano, come se volesse stringere l'acqua in un pugno. E nel giro di poco tempo questa passione per il movimento mods, no? Abbiamo visto la pettinatura prima di Bowie con questa zazzerina, questa pettinatura con la cravattina, insomma molto anni, fine anni 60 così della Londra di quell'epoca, in breve tempo scema, insomma, questa passione, questo rispecchiarsi nel mondo dei mods scompare ben presto e inizia una nuova passione. Bowie ha sempre questo ha sempre una passione da inseguire, cioè non riesce a finire un periodo, non riesce a finire un disco che è già a quello dopo, e già è al passo successivo. E la seconda grande passione del giovane Bowie è Dylan, in qualche modo, la musica folk in generale che gli viene dall'America. In parte Bowie, soprattutto nei primi tempi, ha una grande passione per un altro grande artista, che è quello che ascoltavamo prima nell'attesa di aprire la serata, che è Mark Bolan, che soprattutto in quegli anni, fino diciamo al 72, fino all'epopea di Ziggy Stardust, è un passo avanti a Bowie sempre. E Mark Bolan aveva già creato un duo folk, già si era dedicato, aveva poi pubblicherà tre dischi come Tyrannosaurus Rex, insomma, questo mondo è un altro mondo, quello di Bolan. Però Bowie ci si raffronta spesso con Bolan e inizia questa passione per Dylan, comunque per il cantautorato di questo tipo qua. E anche la passione, naturalmente siamo intorno al 68-69, per il movimento hippie. Il disco successivo, che ancora si chiamerà David Bowie, che invece poi noi tutti adesso conosciamo come Space Oddity, verrà ripubblicato qualche anno dopo il successo di Bowie, appunto con il titolo della canzone che ha lanciato questo album. È già un disco completamente diverso rispetto a questo primo disco di cui si parlava prima. Un disco, non è ancora il Bowie maturo, però dentro ci sono già fiori di canzoni. La canzone ovviamente più famosa tratta da quel disco, che adesso andiamo a vedere, è la canzone che poi darà il titolo alla ripubblicazione del disco, che è Space Oddity. In quel periodo Bowie cambia anche produttore, si chiama Ken Scott, si chiama Ken Scott. Ed è, c'è una cosa particolare di questo Ken Scott, che produce tutto l'album, che è questo. Vediamo, c'è anche la cover numero 1, che comunque è questo, quando esce il disco è questo qua. Poi quando verrà ripubblicato come Space Oddity, la copertina sarà questa. C'è una particolarità di questa canzone Space Oddity, che Ken Scott si rifiuta di produrre la canzone specifica Space Oddity, perché cioè produce tutto l'album, escluso quella che poi alla fine diventerà la più famosa. Si rifiuta perché in qualche modo pensa, ha ragione dovuta, che Bowie voglia sfruttare il grande evento mediatico che di lì a pochi mesi sarebbe successo, ovvero lo sbarco sulla Luna, che è del luglio del 69. Bowie in tutte le maniere voleva pubblicare questa canzone che aveva già strimpellato, aveva già suonato nel festival folk, così, con un duo, aveva formato un duo che si chiamava David and Hutch, tipo Starsky Hutch. un po' ricopiando il Bolan dei Tyrannosaurus Rex. E già l'aveva cantata questa Space Oddity in versione embrionale. Però vuole pubblicare in tutte le maniere, prima dello sbarco del primo uomo sulla Luna, questa canzone, perché è convinto, e sarà così, che questa canzone verrà trascinata da questo evento che è evidentemente un evento unico nella storia dell'umanità, no? E Visconti non ci sta, dice no, cazzo, te... Visconti, Ken Scott. Dice, amica, insomma... No? Cioè c'era questo aspetto, no? Un po' puttana, si può dire, sì, un po' puttana di Bowie, che in qualche modo voleva cogliere questo evento e farsi trascinare da questo evento. Quindi il disco è prodotto completamente da lui, esclusa la canzone di Space Oddity. Esce come singolo Space Oddity, verrà poi utilizzata anche dalla BBC, come lui sperava, per l'allunaggio, il primo uomo sulla Luna e così. La canzone avrà un discreto successo, entrerà in classifica, naturalmente trainata anche da questa visibilità mediatica sulla televisione. E ci sono, se voi andate a cercare su internet Space Oddity, ci sono 10.000 versioni di Space Oddity, però quella che mi piaceva farvi vedere, e cercherò il più possibile di essere sul momento storico, no? Quindi cercherò di far vedere le canzoni, se possibile, nel momento in cui Bowie l'ha scritta, è una versione di Space Oddity in una sorta di Sanremo non so dove, quindi è il video numero 2. Quello in italiano? Eh? Quello in italiano? No, è una versione, è in un programma, siamo adesso a Sanremo, allora vediamo. La numero 2, sì, poi ne riparliamo due minuti. David Bowie, publisher, Essex Music International Limited. The winner, Space Oddity. And now here's David Bowie. Questo è David Bowie di Space Oddity. Un coccolone, capelli da uomo. Control to Major Tom. Down control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Down control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. It's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For he sitting in the tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Di Space Oddity in assoluto, la prima apparizione. come dicevo, la canzone esce nel luglio del 69, no, nel giugno del 69, nel luglio del 69, non mi ricordo la data, insomma, cioè dall'unaggio, settembre-ottobre del 69, la canzone entra in classifica, insomma, trascinata da un po' una serie di fattori. E Bowie all'epoca viveva in una specie di comune hippie, insomma, una cosa così, fra lui con la sua ragazza, a cui poi dedicherà anche la canzone, Hermione Farthingale, il suo primo vero grande amore, forse l'unico grande amore prima dell'ultima moglie che ha avuto, e vive appunto questa infatuazione per il movimento hippie, per il mondo, insomma, così un po' naif dei figli dei fiori. C'è nel disco questo David Bowie, che poi ha anche un altro titolo sul mercato americano, era uscito come Man of Words, Man of Music, insomma, poi alla fine i titoli si rincorrono. In questo disco ci sono due canzoni dedicate agli amici o agli ex amici del movimento hippie. Una è un'accusa abbastanza forte, abbastanza decisa, nel confronto appunto di questa sorta di tradimento che lui vive da parte degli amici della comunità hippie, che avevano questo laboratorio d'arte, no? Dove facevano teatro, che ne so, facevano pittura, musica, eccetera, eccetera, in questi festival. E poi c'è una seconda canzone, che è quella che ascolteremo adesso, che è Memory of Free Festival, che è sempre dedicata ai ragazzi della comunità, sempre della comunità hippie, non della comunità che si può intendere. Che è invece un saluto, che è una sorta di preghiera, che insomma, cioè, da un punto di vista anche poetico, insomma, si lascia andare a elementi abbastanza vicini al mondo che stava già lasciando, insomma, quando compone questa canzone lui ha già lasciato il movimento, è già proiettato verso qualcos'altro, come si diceva, non riesce a chiudere un disco, non riesce a chiudere un ciclo che è già con un piede è dall'altra parte. E c'è un altro fattore che incide su questa canzone. La canzone si intitola Memory of Free Festival, cioè in memoria di un festival libero, ed è un festival che lui aveva organizzato appunto con la sua ragazza e con il gruppo degli amici del laboratorio d'arte, il 16 agosto del 69, ovvero quando dall'altra parte dell'oceano Jimi Hendrix chiudeva Woodstock, perché Woodstock era 14, 15 e il 16, quindi quando chiude Woodstock lui apre la sua piccola Woodstock in questo piccolo parco londinese, con le bancherelline dove si vendono le collanine, qualcuno venderà un po' di fumo, l'altro, due decenni fatti così, eccetera, eccetera. Però era insomma un mondo che aveva un suo perché. Dedica questa canzone alla fine di questo mondo, quindi è una sorta di commiato, di lascito degli amici, però nello stesso tempo, e lo si intuisce soprattutto dall'inizio, da questo organo di chiesa, sembra un organo di chiesa, è probabilmente un organo da chiesa, è una sorta di canto funebre, che non è soltanto un canto funebre rivolto al movimento hippie e quindi ai suoi amici che sta lasciando in qualche modo, ma anche al padre che è morto poche settimane prima. Ed è una data, perché vi ho fatto vedere quel momento in cui Bowie va a ritirare questo attestato lì? Perché il babbo di Bowie muore nei primi giorni di agosto del 69, e il festival è il 16 agosto, quindi due settimane dopo. Muore quando lui è in una sorta di tournée, questa è buffa, era stato mandato in una sorta di festival, all'epoca c'erano questi festival, si chiamava il Festival del Mediterraneo, una sorta di cantagiro, ed era stato mandato da Tony Visconti, non con la canzone Space Oddity, no, ma con una delle vecchie canzoni tratte dall'album della Deram, non mi ricordo qual era la canzone in realtà. When I Live My Dream. Quella era stato mandato a questo festival come era stato mandato a questo festival da Tony Visconti in quell'estate, e quando poi viene richiamato a casa, perché il babbo stava molto male, poi morirà pochi giorni dopo, lui riceve un attestato, il primo attestato che in qualche modo gli dà fiducia a questo giovane ragazzo, un premio, no, per la canzone, e viene dato niente poco di meno che a Monsummano Termini. Quindi abbiamo questo, ragazzi, quindi, se non ci fosse stato questo premio così importante internazionale del Festival del Mediterraneo Monsummano Termini, probabilmente il giovane Bowie non avrebbe avuto questa iniezione di fiducia che poi l'ha portato là dove l'ha portato. E si dice, poi avevo letto su questi libri, che insomma Bowie sul letto di morte del padre gli dice appunto: guarda, insomma, tuo figlio sarà anche un capellone, era anche andato via di casa, ma guarda, ho vinto, insomma, c'ho il diploma. E quindi era questa cosa qua. Però la canzone che ascoltiamo adesso, appunto questo Memory of Fest, è una canzone che a me piace moltissimo. È molto lunga, quindi tutta non riusciamo ad ascoltare, magari la prima parte, poi quando inizia la parte finale è molto, molto beatlesiana, ricorda le grandi orchestrazioni alla Beatles. L'inizio appunto c'è questo organo quasi funereo che annuncia appunto questo saluto al padre e agli amici della comunità hippie. Niente, proviamo ad ascoltare, vediamo quanto tempo abbiamo. Maybe I should announce it. C'è anche i sottotitoli in spagnolo. Memory of the Free Festival. Children of the summer's end gathered in the dampened grass. We played our songs and felt the London sky resting on our hands. It was God's land. It was rugged and naive. It was heaven. We touched the very soul of holding each and every life. We claimed the very source of joy, ran through. It didn't, but it seemed that way. I guess a lot of people that day. Oh, to capture just one drop of all ecstasy that swept that afternoon, to paint that love upon a white balloon and fly it from the toughest top of all the tops that man has pushed beyond his brain. Satori must be something just the same. We scanned the skies with rainbow eyes and saw machines of every shape and size. We talked with tall Venusians passing through. And Peter tried to climb aboard, but the captain shook his head and away they soared, climbing through the ivory vibrant cloud. Someone passed and blessed among the crowd. Then we walked back to the road, unchained. Thank you. piace tagliare le canzoni, ma il periodo è molto lungo, le canzoni di cui vorrei proporvi sono tante. Magari se resta rimane un po' in sottofondo. C'è questa lunga coda finale, no? Con questo coro che ricorda un po'. E giù delle bizze. Come dicevo prima, poi chiudiamo con questo disco. Il disco insomma si intravede che nei ragazzi c'è qualcosa di buono. Space Oddity è una canzone che dopo 50 anni siamo sempre qui a cantarla, no? Mi diceva Caldo che c'è un video che è stato pubblicato l'altro giorno. Dov'è Caldo? Aspetta. C'è qui. Come fuori? No. Questa è una legale. Che c'è questo video di questo astronauta che canta la canzone di Space Oddity, insomma. Però il tema di Space Oddity in realtà non è un tema frivolo, no? Cioè, all'epoca fu utilizzato da BBC per fare da colonna sonora all'allunaggio del primo uomo sulla Luna. No, in realtà parla di una solitudine immensa, di un'alienazione e di una solitudine di questo maggiore Tom che si perde negli spazi. In realtà è il Bowie che si perde negli spazi della propria interiorità, no? Sono gli spazi profondi della sua anima dove il ragazzo Bowie va a perdersi, no? Poi naturalmente ne fa un raffronto e ne fa un parallelismo ed un gioco con lo spazio siderale, con lo spazio delle stelle, ma in realtà lo spazio in cui si perde, la solitudine in cui si perde Major Tom, che è la prima figura chiave delle tante figure di Bowie, è quello di un uomo profondamente solo, no? Alla ricerca di se stesso, in uno spazio solo, isolato della propria anima. E dicevo, il disco alterna fra ballate appunto anche un po' più leggere, cioè Janine, Letter to Hermione, poi questa dolorosa elegiaca, insomma canzone così dedicata al padre piuttosto che alla fine di una storia. E c'è un personaggio che poi ritornerà dopo, non nel disco seguente, ma in Hunky Dory, che è Rick Wakeman, che molti conoscono per poi aver fatto una carriera importante negli Yes, o prima negli Strokes e poi negli Yes, e che suona le tastiere in Space Oddity. Non suonerà nel secondo disco, nel disco seguente, che è The Man Who Sold the World, ma poi lo ritroviamo in Hunky Dory, ed è una figura, in Hunky Dory diventa piuttosto centrale il lavoro che fa Wakeman al pianoforte piuttosto che alle tastiere. Insomma, il disco, a parte questo piccolo exploit del singolo Space Oddity, di cui c'è anche una versione italiana tradotta in maniera terribile da Mogol, che però è stata riutilizzata nell'ultimo film di Bertolucci, sì, in una scena abbastanza interessante. E, vabbè, il disco in realtà non ha nessun tipo di riscontro, se non appunto questo piccolo exploit in classifica con il singolo. Bowie entra in una... anche se gli hanno dato l'attestato, in realtà con l'attestato ci fa poco, entra in una crisi abbastanza profonda, una sorta di lunga depressione. In quel periodo trova anche il modo di sposarsi, si sposa con questa giovane americana che si chiama Angie. Era depresso forte, il ragazzo. Si sposa con questa Angie dopo la delusione con Hermione, che no, c'è questo grande amore, insomma, che finisce, così come finisce tutta l'epopea hippie, e si mette al lavoro di questo nuovo disco, il secondo, poi in realtà se il primo non lo mettiamo in cantiere, che è The Man Who Sold the World. Questa è la copertina originale, ci dovrebbe essere la cover di The Man Who Sold the World, è la cover numero 2, è quella, questa figura di un Bowie molto, molto femminile, sdraiato su questo letto azzurro con queste carte da gioco e con questi lunghi capelli dorati. Inizia a giocare un po' con questo elemento dell'ambiguità sessuale, no? Si presenta vestito da donna e si fa accompagnare dalla moglie Angie nei locali vestita da uomo. Insomma, si scambiano un po' questi ruoli, giocano un po' su questo aspetto di una sessualità non ben definita. Il ragazzo è alla ricerca non solo di un'identità, ma anche di un'identità sessuale, probabilmente. E appunto è in un periodo piuttosto cupo della sua vita, e esce con un disco, questo The Man Who Sold the World, appunto. Questa poi sarà la copertina degli anni 72-73, però c'è anche un'altra copertina che è importante da far vedere, che è la cover, bravo, quella. Questa è la prima copertina originale che Bowie chiese ad un suo amico di disegnare per il nuovo disco dei Man Who Sold the World. Ed è la copertina che verrà utilizzata sul mercato americano. Gli americani... C'è un cowboy, poi di qua c'è questo qui, non si sa se è un uomo, se è una donna, quindi vedete che gli americani volevano questa copertina da mettere nei negozi di dischi. E nella copertina c'è questo sfondo che è Case Hill, che è l'ospedale psichiatrico, il manicomio, dove verrà rinchiuso il fratello Terry. E i primi due dischi, appunto, sia Space Oddity che The Man Who Sold the World, hanno una scrittura molto narrativa, è quasi una sorta di biografia, cioè lui che scrive di se stesso, scrive del fratello. Poi dal disco Hunky Dory in poi la scrittura diventerà qualcos'altro, la scrittura dico dei testi di Bowie, non della scrittura musicale, anche la scrittura musicale in questo disco sarà molto particolare. Bowie sente sempre di più questo il problema, diciamo così, del fratello che inizia a perdersi completamente, gli dedica due canzoni sul disco, noi naturalmente le andremo ad ascoltare perché sono anche quelle forse più intense dell'album, ma prima di andarci a vedere questo elemento del fratello, c'è un'altra cosa che bisogna sottolineare. In questo disco arriva Mick Ronson alla chitarra. Mick Ronson sarà il chitarrista fondamentale di tutta l'epoca londinese, diciamo così, di tutto il periodo glam fino a Alive Insane. È l'alter ego di Bowie. Tant'è vero che il gruppo si chiamano Hype, c'è cioè Tony Visconti al basso, c'è cioè, Mick Ronson alla chitarra, è il primo nucleo di quelli che poi sarà, poi Mick Ronson sarà poi il Deus Ex Machina che poi guiderà gli Spiders for Mars, ed è talmente importante, talmente centrale la figura di Mick Ronson che adesso lo andiamo a vedere in un video che dura molto, dura quasi 15 minuti, ma lo vediamo tutto questa volta perché vale veramente la pena vederlo tutto. Ed è la canzone che dà titolo, che apre l'album The Width of a Circle, che è una lunga cavalcata elettrica. Il disco The Man Who Sold the World è il disco più rock che ha fatto Bowie, il disco più hard rock che ha fatto Bowie. Quasi a rimessa, no, addirittura. È anche acidigno. Un po' acidigno. Cioè, è un disco, un disco che a me piace tantissimo. In cui Mick Ronson fa la parte del leone, non solo dal vivo come vedremo adesso, ma anche in studio. Ora, ci sono i racconti di Tony Visconti e anche di Mick Ronson che dice che Bowie praticamente entrava in studio la mattina o il pomeriggio o la sera, non so quando ci andava, entrava, diceva questa è la canzone e poi andava via. E tutto il lavoro vero che viene fatto nel disco, non solo gli arrangiamenti, ma anche gran parte delle canzoni, sono di Tony Visconti e di Mick Ronson. Bowie firmerà le canzoni tutte, non ha mai deciso, concesso no? L'onore a Mick Ronson di dividere una canzone, lui che ha fatto gli arrangiamenti più belli. Cioè, Mick Ronson è quello che ha prodotto e arrangiato Transformers di Lou Reed, cioè l'ha fatto lui, Transformers di Lou Reed. Bowie stava lì. Sì, cazzo, si guardava Lou Reed, ma il lavoro vero l'ha fatto Mick Ronson. E il lavoro vero anche su The Man Who Sold the World lo fa Mick insieme a Tony Visconti. Allora, vi chiedo un esercizio, diciamo così, di un piccolo balzo in avanti, perché il video che adesso vediamo non è di questo periodo qui, non è il Bowie con il capello... No, fatalone così, ma è il Bowie del tour di Ziggy Stardust alla Insane. Lo vediamo perché a un certo punto del video che vediamo adesso, che è registrato all'Hammersmith Odeon nel luglio del 73, a un certo punto, dopo i primi due minuti in cui Bowie naturalmente inizia a cantare questa bellissima canzone, la scena è completamente presa da Mick Ronson. Per i seguenti 7-8 minuti c'è solo Mick Ronson sul palco, Bowie viene completamente abbandonato. Cioè, si fa un piccolo passo indietro, no? Dà finalmente le luci della ribalta a questo straordinario chitarrista che secondo me gli poteva dare di più. Però insomma, allora la vediamo tutta, anche perché una volta che torna Bowie sul palco ci saranno alcuni elementi che ci ricorderanno l'incontro con Lindsey Kemp. qui provo anche a dargli un po' di volume, se ci si fa, se non distorge. Quindi questo è il Bowie già superstar. We'll be right back. Piaceva farvela vedere tutto, quasi tutto, insomma adesso sfumiamo la parte finale che non è meno bella insomma della parte che abbiamo appena visto, proprio per cercare di capire cos'erano gli Spiders from Mars al massimo del loro splendore, cioè, una macchina da guerra non da poco, quando pigiavano sull'acceleratore, poi quando facevano le ballate più glam, d'accordo, ma quando dicevano di tirare gli Spiders tiravano di brutto. Mick Ronson, un grandissimo chitarrista, poi si rivederà anche un grandissimo arrangiatore, un polistrumentista molto raffinato, insomma veramente un grande artista che farà da spalla a Bowie per tutti quegli anni. Si diceva prima di questo periodo un po' duro e un po' assente di Bowie nel periodo in cui incide The Man Who Sold the World, tant'è vero che Tony Visconti a un certo punto si rompe il coglione di questo Bowie che c'è, non c'è, fa la canzoncina, poi via, va a fare l'amore con la moglie, con la moglie appena sposata, insomma un po' si rompe il coglione e lo molla e va nel momento, no, dopo Tony Visconti viene recuperato dopo, però in quel momento lo molla, va a produrre, forse mi sbaglio, ma va a lavorare con Mark Bonner e con i T-Rex. E quindi il disco successivo sarà un'altra cosa rispetto anche alla forza così heavy, no? di questo inizio di album. Ora l'album non è tutto così hard rock, non è così tutto tirato, ci sono delle canzoni piuttosto struggenti, molto bellissime peraltro, e mi piacerebbe farvene vedere due, però non ne scelgo una perché se no non ce la facciamo. Naturalmente su The Man Who Sold the World c'è anche la canzone omonima, The Man Who Sold the World, che molti adesso conoscono per la versione rifatta da Kurt Cobain nel live acustico con i Nirvana. E c'è anche, ora, anche qui si poteva aprire un discorso un po' più, il perché alla fine Cobain sceglie questa canzone del grande carnet di canzoni di Bowie che poteva scegliere, però no, insomma, non abbiamo tempo, o se magari se lo riallaccio a un'altra canzone che vediamo dopo. Il disco è segnato e il periodo è segnato profondamente dalla malattia che si sta aggravando molto del fratello, che come si era visto sulla copertina originale del disco esce ed entra sempre più ripetutamente da questo ospedale psichiatrico, da questo manicomio. Bowie dedica una canzone, abbiamo detto che fino a questo, il primo e il secondo disco, insomma fino a The Man on the Road, sono dischi abbastanza autobiografici, insomma, dove Bowie si racconta anche in prima persona. E la canzone che dedica completamente al fratello è Old Bad Man, wow. che adesso... non sei il solo. E una canzone che risente da un punto di vista dei testi fortemente dal Kerouac che il fratello così tanto ha fatto conoscere al giovane Bowie, insomma, questa narrazione molto poetica sul mondo della follia, no? E della purezza anche che c'è nei malati, no? C'è un accostamento molto forte che farà anche in un'altra canzone fra l'innocenza che c'è nei bambini. Lui è molto legato ai bambini Bowie, lo è sempre stato in questo periodo in maniera molto particolare. Inizia il primo disco, quello della Dera, ma alla fine sono filastrocche quasi per bambini. Idealizza un po' questo, il mondo della, no, della purezza del bambino, e in qualche modo idealizza anche la purezza del folle, no, del malato di mente, che è appunto il fratello. Io direi di ascoltarla. Vediamo che numero è. Se la ritrovo, la canzone, come diceva Massimiliano, è una delle più belle in assoluto che Bowie ha scritto. Non mi vorrei sbagliare, ma non l'ha mai cantata dal vivo. No. Ma fino al 2002, no? Cioè l'ha cantata soltanto dopo 30-40 anni. Non l'ha mai cantata dal vivo. Con no? Una sorta di pudore, una sorta, no, di forse... Va bene, proviamo a ascoltarla. È la numero 5. Il video è un video che ho trovato su internet, con immagini tratte da, appunto, ospedale psichiatrico. Spero che non vi dia disturbo, non lo so. La canzone è straordinaria. Day after day, they send my friends away to mansions cold and grey, to the far side of town where the thin men stalk the streets while the saints stay underground. Day after day, they tell me I can go, they tell me I can blow, to the far side of town where it's pointless to be high, 'cause it's such a long way down. So I tell them that I can fly, I will scream, I will break my arm, I will do the harm. Here I stand, foot in hand, talking to my wall. I'm not quite right at all. Some brain away, then turn my face around. Allora, metti di sottofondo, non lo ascoltiamo, ma insomma di sottofondo mi piace far ascoltare la numero 6 che è After All. La canzone insomma è una delle canzoni più, secondo me, più belle di Bowie. Il testo è un testo molto profondo, molto sentito, molto poetico, insomma, questo, come spesso nei testi di Bowie ci sono, no, continui cambi di punti di vista. A volte la canzone sembra cantata dal fratello, come se il protagonista fosse il fratello, poi in altri passaggi invece è qualcuno di esterno che sta raccontando. Insomma, ci sono spesso questi giochi, questi rimandi da una parte e l'altra nei testi di Bowie. Il disco, come dicevo, è un disco che esce in un momento difficile della vita del giovane David, anche se era appena sposato, poteva avere insomma qualche motivo per allegrarsene, evidentemente, insomma, entra in una sorta di crisi creativa, come dicevo prima, compone le canzoni in maniera molto veloce, poi abbandona lo studio e lascia fare tutto a Visconti e a Mick Ronson. Il disco uscirà nel novembre del 70, prima negli Stati Uniti, e poi credo 3 o 4 mesi dopo, nel marzo-aprile del 71, esce in Inghilterra. Proprio perché esce prima negli Stati Uniti il disco, Bowie parte per gli Stati Uniti e finalmente conosce gli Stati Uniti. Lui adora gli Stati Uniti, da ragazzo è appassionato, ama follemente Kerouac, è tutta la poesia beat, ha amato e ama naturalmente il rock and roll di Elvis Presley piuttosto che di Little Richard, che sono due figure chiave che poi si ritroveranno in Ziggy Stardust. E ha iniziato ad amare il nuovo rock americano. Mick Ronson gli aveva portato, durante l'incisione di questo disco di ritorno negli Stati Uniti, il primo disco del Velvet Underground. Signori, siamo di fronte all'abisso che si apre, all'abisso, alla vetta che si apre anche nel cuore e nella mente di Bowie, che naturalmente si innamora di questo disco del Velvet Underground, si innamora naturalmente di Lou Reed come artista, poi conoscerà sempre in questo periodo Iggy Pop, insomma tutto questo nuovo rock americano che gli apre nuovi spazi. E quindi il disco, dicevo, esce prima negli Stati Uniti e poi in Inghilterra, questo gli dà la possibilità di promuovere prima negli Stati Uniti il disco, non farà un vero tour, farà soltanto un giro promozionale per le radio, ma gli dà appunto la possibilità di iniziare ad entrare in contatto con questi artisti che lui così tanto ama, no? Bowie alla fine è un fans, cioè è come uno di noi che si appassiona follemente alla musica degli altri. Bowie è stato spesso tracciato di essere uno che ha rubato a destra e a sinistra, ma in realtà, come dicevo prima, lui è una sorta di specchio, no? E si rispecchia negli altri e trova in qualche modo nel riflesso di Lou Reed piuttosto che di Iggy Pop una parte di se stesso, no? E poi la rielabora, la riporta e la rielabora attraverso la sua sensibilità e quindi attraverso le sue canzoni. Tant'è vero che questo elemento del fatto che Bowie prende un po' a destra, un po' a sinistra, un po' su, un po' giù, no? Che da una parte della critica gli è stato spesso rinfacciato come il fatto che fosse poco originale, diciamo così. Bowie alla fine è talmente onesto con se stesso e con gli altri che prima di tutto non ha mai rinnegato questo, anzi lo ha detto a 4:20, sì, questa canzone nasce perché ho sentito questo, perché ho trovato spunto da quest'altra parte. Tanto è vero che il disco seguente, che è Hunky Dory, che è un disco di più, è pieno nel retro di copertina, pieno di ringraziamenti. È il disco dove Bowie finalmente dice: oh, questi sono i miei idoli. E questo è il tributo che paga Bowie a Bob Dylan, a Andy Warhol, a Lou Reed, a Frank Sinatra. Ora vediamo perché Frank Sinatra. E lo dice, lo scrive: grazie Frank, su Life on Mars. Direte, che c'entra Frank Sinatra o Life on Mars? Cazzo, c'entra. Ora vediamo perché. E poi Queen Beach, che è il pezzo più velvettiano di Bowie, che sembra una canzone tratta dal repertorio, cioè è sui generi, c'è cioè un pezzo di Velvet, dice: aspetta, com'è che dice? Sono senza occhiali. Ah, vabbè, ma ringrazio il Velvet Underground. Dice, questa è White, ah no, White, White Light, Whitehead, di ritorno, grazie, grazie a tu, grazie, con ringraziamento, cioè ringrazio praticamente Lou Reed e Velvet Underground. Allora, il disco è un disco completamente diverso da The Man Who Sold the World, molto più solare, le canzoni si aprono, sono più leggere, non ci sono queste grandi cavalcate rock che abbiamo visto prima, e anche la cupezza che c'è in The Man Who Sold the World, anche se non mancano anche qua certi riferimenti piuttosto intensi. Si apre con Changes, la canzone con cui abbiamo aperto la serata, quindi non la riascoltiamo, ed è un periodo estremamente fertile, estremamente creativo per il nostro giovane, che poi tanto giovane, cioè non è che ha più 17 anni, però... quanti anni aveva? 24, 23, 25. Vabbè, non è più un ragazzino di 15 anni. Cioè, a quell'epoca, che ha quasi la stessa età, Robert Plant tirava giù il mondo, e lui ancora non è nessuno, perché il primo disco... No, lui un po' rosicava, diciamo. Il primo disco non ha venduto niente. The Man Who Sold the World, ora, se è vero quello che io ho letto su alcuni libri, e credo che siano molto attendibili, e negli Stati Uniti, che dove ha fatto il botto quando lui ha venduto 5.000 copie. In Inghilterra, quando è uscito, aveva venduto 1.000 copie, 2.000 copie, cioè nulla. Bowie non era nessuno, no? E cominciava a avere, allora dico, era un ragazzo, ma insomma, a quell'età lì, Robert Plant, tirava Mick Jagger, aveva buttato giù il mondo, e lui che voleva buttare giù il mondo ancora non aveva fatto niente. Però questo è un periodo estremamente creativo. Le canzoni gli nascono dalle dita e nella testa come se fossero come funghi nel bosco quando ha piovuto e quando c'è il vento giusto, quando c'è tutte le condizioni adatte per far nascere ciò che deve nascere. Le canzoni arrivano, tant'è vero che c'è questa storia che vi racconto su Life on Mars, che adesso vediamo, e anche qui dobbiamo fare uno sforzo, perché il video che tutti conoscete, che tutti conosciamo di Life on Mars, è un video fatto dopo quando Bowie diventa Ziggy Stardust, quando diventa la grande star, però all'epoca è sempre il Bowie con il capello lungo. Vediamo il Bowie dell'epoca, foto 6, 7, 8. Vai su. Eccolo lì, questo. Sei sotto. Eccolo lì il nostro Bowie. Questo è il Bowie di Hunky Dory. Non è ancora il Ziggy Stardust con la cresta, con i capelli rossi sparati, con i zatteroni, eccetera. È un Bowie molto. Molto figo. La canzone. Come nasce la canzone Life on Mars? No? Lui ha una grande passione per il cinema, no? Non solo ha una grande passione per il teatro, non solo ha una grande passione per il rock and roll, per la musica americana, per la letteratura americana, ma anche per il cinema, no? E il cinema è obiettivamente è per il cinema americano, tanto è vero che Life on Mars parla di cinema, parla del mondo del cinema e di come e della possibilità di riscatto di una bambina, di una ragazzina, di un adolescente inglese che cerca di riscattare la mediocrità del proprio grigio vissuto attraverso la visione di un film, e poi in realtà il film fa cagare. e lei a un certo punto da di fuori con questa esclamazione Life on Mars, cioè vita su Marte, che in realtà sembra che non c'entri niente all'interno della stesura della canzone. Però la canzone, dove nasce la canzone? Perché Bowie ringrazia Frank Sinatra? La canzone gli nasce nella testa, lui stava passeggiando per Londra sul pullman, così insomma nella testa gli frullano gli accordi di questa canzone, corre a casa. C'è una cosa che dobbiamo ricordare a proposito di Hunky Dory, è che la moglie Angie aveva noleggiato un pianoforte e l'aveva portato in casa. Fino allora Bowie ha composto tutte le sue canzoni sulla chitarra, inizia a comporre le canzoni anche se in maniera molto elementare, poi infatti chiamerà Rick Wakeman a fare le partiture, quelle vere e serie al pianoforte, ma inizia a suonare il pianoforte, quindi a comporre la canzone sul piano, e questo gli apre nuovi spazi, no? E corre a casa, c'ha questo ritornello, questa cosa che gli frulla nella testa, queste parole che gli girano la testa, arriva a casa di corsa, nel giro di una mezza giornata praticamente Life on Mars è scritta. Arriva Frank Sinatra. Praticamente la canzone ruota intorno agli 8 accordi di My Way di Frank Sinatra. Perché Frank Sinatra è così importante? Perché nel 68 Bowie, all'epoca in cui era ancora legato a questo mondo, no, prima di Space Oddity, quindi insomma all'epoca del primo disco della Deram e così, che lui stravedeva per il mondo dei neoromantici, cioè la sua idea era, allora dico una cazzata, però il suo ideale era il Gigi D'Alessio che abbiamo noi oggi a quell'epoca, per dirla come siamo messi. E c'era questa canzone, una canzone francese, di, mi ricordo questo cantante francese, che all'epoca aveva avuto un grande successo in Francia e che volevano portarla e farla diventare un successo anche negli Stati Uniti o comunque sul mercato inglese, anglo-americano. E chiedono a Bowie, tra l'altro, di fare la traduzione di questa canzone. Lui farà la traduzione di questa canzone raccontando una storia, insomma, così. Non piace la traduzione che fa Bowie. Gli viene scelta la traduzione che fa... chi è che l'ha fatta, My Way? No, magari dopo, più tardi, fratello. Vabbè, insomma, dopo mi verrà. Insomma, gli viene scelta la traduzione del. Vabbè, insomma, questo. E la canzone è My Way, che poi Frank Sinatra la porta al successo planetario. Quindi, in qualche modo, Bowie rosica un po' su questo fatto di aver perso l'occasione di entrare nella storia della musica con la traduzione di una canzone che poi diventa una delle canzoni più famose della storia della musica leggera. Però questa canzone, questo in qualche modo gli resta dentro, gli ronza dentro, e gli stessi accordi su cui è composta My Way sono gli stessi 8 accordi. Io non sono musicista, quindi non mi lancio oltre a questa lettura, a questa disamina della canzone di Life on Mars. Comunque le 8 note che girano intorno a My Way sono le stesse, naturalmente ricomposte e riarrangiate, che girano intorno a Life on Mars. Bowie è talmente onesto con se stesso e con gli altri che ringrazia Frank, cioè non è che dice no, cioè non è che ruba qualcosa, dice, ma l'ispirazione mi viene da lì. Il testo, come dicevo prima, è un testo che parla di questa ragazza che cerca di riscattare il proprio vissuto grigio e quotidiano attraverso il cinema, attraverso la visione di un film. In realtà poi, come dicevo prima, il film è una grande cagata, e la ragazza cerca un riscatto ulteriore lanciando un grido, no? Questo, c'è vita su Marte, come se volesse andare oltre anche l'illusione che il cinema ti dà, no? Cercare un'illusione ancora più avanti, proiettata ancora più in alto, oltre le stelle del firmamento di Hollywood, nelle stelle che portano, insomma, nello spazio. La canzone che vediamo è quella famosa che tutti conosciamo con il Bowie e Ziggy Stardust, quindi però cercate di fare un passo indietro. Il Bowie che scrive questa canzone è quello che abbiamo visto adesso, Life on Mars. Forse c'è anche la traduzione in italiano. No. No? Mi sembra che sì. Sì, sì. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad evil, but she's lived it in time so long. She can swear to the eyes of fools as they ask her to quote the song. Say it in the words, fighting in the dance hall. Oh man, never thought it's came and go. It's the creepy shadow. Take a look at the long man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. Oltre al riscatto, diciamo così, da una vita grigia e povera, insomma, anche di, non solo dal punto di vista economico, ma povero dal punto di vista anche morale, così, insomma, della ricerca di un riscatto, no, o di una visibilità. È anche il tema che si diceva prima di The Man Who Sold the World, cioè quello di essere comunque dentro un grande show, di voler essere dentro un grande show, o di cercare tutte le strade, tutte le maniere per diventare uno che è dentro un grande show. Poi magari ti accorgi alla fine il film fa cagare, però Bowie ha questa aspirazione di diventare una grande star. Ancora non è una grande star, abbiamo detto che The Man Who Sold the World ha venduto 5.000 copie negli Stati Uniti, che è il mercato più grande del mondo, dove si vendevano milioni di copie, dove le Zeppelin facevano milioni di copie, no? E lui, cioè, non era nessuno ancora Bowie. E comunque c'è sempre questa dicotomia all'interno del Bowie, quello di voler diventare una grande star e quindi in qualche modo di percorrere tutte le strade per poter giungere a quello che è il suo grande sogno, di diventare la più grande star del rock, e allo stesso tempo il sentirsi che in qualche modo deve vendere qualcosa di se stesso, no? Deve vendere la propria anima al diavolo, tra virgolette, per poter giungere a questo, e che è il tema di The Man Who Sold the World, che è quello che ha captato Kurt Cobain, no? In qualche modo, quando ha rifatto The Man Who Sold the World, questo appunto doversi vendere, no? Per diventare una grande star. È un tema che ricorre spesso in David Bowie, uno dei temi centrali di David Bowie, e lo vedremo dopo in un'altra canzone, che è Crooked Hector, che la vediamo è tratta da Aladdin Sane, perché lì c'è un video, insomma, dopo ne parlo dopo. Il disco, dicevo, appunto, è una sorta di tributo ai suoi grandi idoli, Dylan, Lou Reed, eccetera, eccetera. Il disco è questo. Volevo farvi ascoltare un'altra canzone, ma non riesco a farvela ascoltare, che è The Beaulieu Brothers, che è l'ultima canzone che Bowie scrive per il fratello, che è nuovamente una canzone struggente, una canzone bellissima, ma vedo che il tempo non mi dà questa possibilità. però vorrei ascoltare un altro brano tratto da questo disco, che è Quicksand. Quicksand è importante per metterci in relazione con la parte, con la ricerca spirituale di Bowie. Bowie nasce naturalmente all'interno di una famiglia cattolica, protestante, eccetera, eccetera. Nel momento della grande passione per il movimento hippie, come si avvicina alle filosofie orientali, si avvicina molto al buddismo, e finita l'epoca hippie, diciamo così, con quella canzone che abbiamo ascoltato prima, no? Con questa sorta di canto del cigno che era appunto Memory of Free Festival, chiude in qualche modo anche il rapporto con questo. In realtà non lo chiude definitivamente, lascia sempre le porte aperte a tutto Bowie, però è un momento in cui è profondamente disilluso da qualunque tipo di religione, anche quella buddista, e si avvicina a Aleister Crowley, che è un personaggio piuttosto conosciuto in ambito del rock, no? Insomma, Jimmy Page, per chi conosce la storia di Jimmy Page e delle Zeppelin, sa quanto questa figura di questo mago esoterico, di questo occultista. Diciamo così, Page, tra l'altro, anche la sua casa, non mi ricordo, sul lago quella che c'è in Svizzera, che ha comprato Jimmy Page, sì. No? Jimmy Page era completamente fissato con quale stare, insomma, un personaggio ambiguo dalle molte sfaccettature. Quicksand risente fortemente di questo, il brano Quicksand e anche altri brani che magari non abbiamo tempo per andare ad ascoltare e sviluppare, risente fortemente degli scritti e delle letture che Bowie fa su questo Aleister Crowley. In realtà, che poi ritroveremo anche in Ziggy Stardust, no? Ziggy Stardust è un po' la summa di tutte le varie influenze che Bowie ha avuto in quegli anni, e c'è naturalmente anche questo Aleister Crowley, e il nocciolo centrale dell'insegnamento, se così possiamo chiamarlo, di Crowley, che è quello del potere, no? Di quello di diventare un uomo di potere. Quicksand, Sabbie Mobili, racconta del periodo molto confuso di Bowie, in cui non sa più a dove aggrapparsi, a quale specchio cercare una risposta per questa sua sete di ricerca di verità, sete di ricerca di identità, no? Sete di ricerca a risposte che vanno al di là, no? di una risposta che può essere una risposta ordinaria o quotidiana, e si avvicina, come dicevo prima, anche alle letture di questo Aleister Crowley, e in alcuni passaggi trova alcuni elementi con cui può confrontarsi, con cui può che condivide insieme ad Aleister Crowley. Volevo dire un'altra cosa, mi sfugge. Va bene, ascoltiamo Quicksand, questa Sabbie Mobili. La Golden Dawn, che fa riferimento adesso, era una congrega esoterica dell'epoca, la Telemaco era la scuola da cui Crowley esce dalla Golden Dawn e fonda questa nuova scuola della Telemaco. I'm closer to the Golden Dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. Dark, where others see their target, divine symmetry. And I aim at the tower more. Don't believe in yourself. Sono tanti anche legati a questa canzone, il concetto del superuomo, tratto dalle letture di Nietzsche, già anche c'è The Superman, per esempio, su The Man Who Sold the World, che tratta lo stesso tema, il nuovo passo evolutivo dell'umanità, questo riferirsi spesso ai bambini come portatori di un nuovo mondo, insomma, sono tutti temi che Bowie ha cantato anche negli album precedenti e che trovano poi forma e realizzazione in quello che è l'album più famoso dell'epoca, del periodo, del cosiddetto periodo londinese, che è quello che trattiamo adesso, che è appunto Ziggy Stardust. Cazzo, che si dice Ziggy Stardust? Ascoltiamolo subito. Da dove si incomincia? Che dicevi? 5 years. Non lo so, ragazzi, che ce l'abbiamo 5 years. Ce l'abbiamo? È la prima. No, beh, prima ci arriviamo. Allora, due o tre cose prima di andare a... Magari vediamo la copertina, che è la numero... La cover 4. È in fondo, qua. Insomma, comunque è questa. Quanto ti avessi detto? Questa. Torna su. Il retro quello. No, è un particolare della copertina. Allora, Bowie ha sempre avuto questa grande passione, si diceva prima, per il teatro, si firma sul disco The Actor, l'attore, insomma, ed ha sempre avuto un po' il pallino per il musical, insomma, sognava di scrivere un grande musical, di portare, di trasformare quello che era uno show, uno spettacolo musicale, uno spettacolo rock in qualcosa di diverso, che avesse a che fare appunto con il mondo del teatro, con il mondo del musical, insomma. Cioè, restringere la multiforme personalità di Bowie in quello soltanto di cantante rock, insomma, è abbastanza limitativo. È tanto di più Bowie, no? E se non si coglie questo tanto di più, alla fine ci può sfuggire anche il fatto che è stato davvero un grande cantante, un grande interprete della musica rock e non solo, ma perché c'è tutto un mondo che gli sta intorno, no? Tutta una serie di specchi, dicevo prima, in cui lui può specchiarsi. In realtà quando mi è venuto in mente questa idea dello specchio di Bowie, che si confronta nello specchio, guarda l'altro cercando se stesso, mi è venuto in mente non tanto quello di una persona che si guarda in uno specchio solo, no? Ma quello che si guarda in una... C'era negli anni 70, quando io andavo in discoteca, quando ero giovane e bello, avevo tutti i capelli neri. C'erano queste palle stroboscopiche, no? che erano fatte di migliaia di piccoli specchietti, no? Che riflettevano migliaia di luci e migliaia di immagini. Bowie è uno che si riflette, non in uno specchio, ma si riflette in una palla così e vede 10.000 se stessi che gli girano intorno, no? Cioè è un artista che veramente che sfugge da cioè, una volta che ti sembra di averlo inquadrato, lui no, cazzo, è già oltre, è già da un'altra parte. Con questo disco Bowie chiude un po' in qualche modo, o apre insomma in qualche modo, a seconda dei punti di vista, un nuovo capitolo della sua grande carriera. E questo Ziggy Stardust, questo personaggio che lui crea, questo alter ego che nel giro di pochi anni diventerà lo renderà uno degli artisti più famosi del mondo occidentale, naturalmente, Inghilterra e America, insomma, alla fine quello che gli interessava, il mondo che gli interessava era quello, perlomeno quel momento, è veramente la sintesi di tutti quegli elementi che lui ha amato, in cui lui si è rispecchiato, da cui lui è stato condizionato, da cui lui ha appreso. C'è dentro Mark Bolan, c'è dentro Lou Reed, c'è dentro Elvis Presley, c'è dentro Little Richard, c'è dentro la sua grande passione per la fantascienza, i testi che lui leggeva da ragazzo della fantascienza, e c'è dentro anche molto della sua storia personale. Ziggy è sì un personaggio creato di sana pianta da Bowie, e Bowie diventerà in qualche modo Ziggy, e lo si capisce tanto più che Bowie è Ziggy e Ziggy è Bowie dal fatto che David Bowie e Ziggy Stardust hanno gli stessi caratteri, la stessa altezza, gli stessi colori nel titolo e sulla copertina del disco. Non nasce subito questo personaggio come tema centrale di un disco che è quasi un concept, in realtà non è un vero e proprio concept quello di Ziggy Stardust, però in qualche modo ci si avvicina, le canzoni sono legate in qualche modo una all'altra da questa storia di questo messia, da questa sorte di messia che scende da Marte o da chissà quale altro pianeta e viene a salvare il mondo da una catastrofe imminente, no? La famosa, come diceva Tommaso, fai via, sì, 5 anni che vengono annunciati all'inizio del disco come l'inizio della fine dell'umanità. E dicevo, non solo c'è tanto delle influenze che Bowie ha avuto da ragazzo e poi anche più grande, che tutte confluiscono in questo personaggio che diventa Ziggy Stardust, c'è anche tanto cinema. I costumi che poi disegnerà per gli Spiders from Mars e per il personaggio di Ziggy Stardust vengono da Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, che già lui aveva amato molto all'epoca di 2001 di Stiano Spazio, che è quella che ha dato il là alla canzone Space Oddity. Ma c'è tanto anche del suo mondo di quando lui era ragazzo, di quando lui era bambino. Lui appunto viveva in questa... a quell'epoca c'era questo terrore, e c'era una vera e propria psicosi a livello mondiale, diciamo così, di una possibile fine del mondo, no? La guerra fredda contrapposta tra il blocco dell'Unione Sovietica e il blocco americano, la possibilità che una grande fiammata potesse, un grande lampo luminoso potesse cancellare e cambiare volto al mondo intero. E lui da bambino, e come tanti bambini di quell'epoca, viveva, no, in questa sorta di angoscia, no, di un mondo che poteva scomparire da un momento all'altro, no, nel 61-62, la famosa crisi della Baia dei Porci, eccetera, eccetera. Tant'è vero che all'epoca, quando lui era bambino, nelle scuole venivano proiettati delle sorte di documentari su come salvarsi se si fosse visto il grande lampo, cioè cose di questo genere. Quindi negli Stati Uniti la gente era impazzita, costruiva i bunker sotto casa, sotto terra, no? Se scoppia la guerra mondiale si va tutti lì sotto, oppure se scoppia la guerra mondiale ci si copre con un foglio di carta, no? Questi bambini a cui venivano insegnate queste cose. Quindi Bowie cresce un po' in questo clima, che è un clima generalizzato, e la valvola di sfogo da questa paranoia un po', no, di questo mondo sull'orlo appunto di una crisi, di una catastrofe nucleare, è stato il rock and roll. È stato quando Bowie ha scoperto, accendendo la radio, che esisteva dall'altra parte, da un'altra parte, che poteva essere anche da un altro pianeta, esisteva un mondo nuovo, esisteva un mondo che non era il mondo grigio, triste e pauroso in cui lo costringevano i genitori piuttosto che gli insegnanti, ma esisteva un mondo fatto di rock and roll, fatto di divertimento, fatto di spazi nuovi, cioè di un mondo che si apriva all'interno di questa visione cupa, di questa possibile fine del mondo. E lui vede in Elvis Presley, e dopo soprattutto in Little Richard, dice: quando ho visto Little Richard in televisione, la testa mi è scoppiata, dice Bowie, raccontando la storia della prima volta da ragazzino che ha visto Little Richard in TV. Vede in qualche modo questi personaggi, Elvis piuttosto che Little Richard, come una sorta di messia che viene da un altro pianeta a salvare a son di rock and roll l'umanità. E questo è Ziggy Stardust. Ziggy Stardust viene a salvare l'umanità dall'apocalisse a son di rock and roll e di sesso, di buon sano sesso, e non fa mai male. Ed è quello che lui sognava da bambino, quello che lui ha proiettato ascoltando le canzoni alla radio. Tanto è vero che nel corso delle canzoni c'è Starman, eccetera, eccetera, si racconta Ziggy Stardust un po', come dicevo prima, a volte nei testi e nelle canzoni il narratore è un narratore in prima persona, poi insomma ci sono vari personaggi. Probabilmente il personaggio alla fine, oltre naturalmente Ziggy Stardust, questo alieno, questo nuovo messia, un po' Tommy, è un po' il Tommy degli Who, no? Chi è Tommy che viene a salvare il mondo giocando a flipper? E questo viene a salvare il mondo a suon di rock and roll e di sesso sfrenato. Cioè lui ha una grande passione per gli Who, l'aveva da ragazzo e se la porta dietro. Non mi ricordo più che volevo dire. Insomma, è un po' la sintesi di tutti questi elementi che hanno composto la sua infanzia, e non solo la sua infanzia, anche fino a quel momento. Crea questo personaggio. Ah no, volevo dire che a un certo punto, nella canzone, mi sembra che sia Star, il racconto di Ziggy Stardust è visto dalla parte di un ragazzo che prima senti in televisione appunto l'imminente fine del mondo su 5 Years, no, il cataclisma che sta arrivando, che fra 5 anni ci sarà la fine del mondo. Poi incontra una ragazza in 5 Years, c'è questo, si apre questo specchio, no, di questo ragazzo che incrocia gli occhi di questa ragazza, si innamora di questa ragazza, e all'interno di questa situazione così disastrosa, no, di un'imminente fine del mondo, nasce un amore, no, in una situazione terribile, che è un po' il tema che lui riprenderà in Heroes, no? I due ragazzi che si incontrano sotto il muro a Heroes, sotto il muro a Berlino. E per esempio in Star c'è questo ragazzo che a un certo punto accende la radio e sente per la prima volta Ziggy Stardust alla radio, questo nuovo messia, no? E non è altro che Bowie che ascoltava Elvis o Little Richard alla radio e scopre un mondo nuovo, che, no, un messia che viene a salvarlo. Allora, Poi ne riparliamo, insomma, diciamo anche altre cose su Ziggy Stardust. Bowie, dobbiamo dire ancora un paio di cose. Bowie in quel momento, e già anche mi sembra nell'album precedente, ora non mi ricordo precisamente se è su Hunky Dory o su Ziggy Stardust, inizia un rapporto con un personaggio piuttosto ambiguo, piuttosto difficile, che è Tony DeFries, che è il manager, diciamo così, di tutto il mondo bowiano fino a Diamond Dogs. Tony DeFries insieme a Bowie fonderanno una società che è la Main Man, che è gestita completamente da questo Tony DeFries, che è un uomo molto scaltro, un ragazzo in realtà molto scaltro, che poi lo porterà, insomma, lo riempirà di debiti, insomma, farà dei grossi pasticci all'interno di questa società. Però l'idea di partenza di Tony DeFries, di Angela Bowie, che è la moglie di Bowie, e di Bowie stesso, è quella di presentare al mondo la nuova star del rock, anche se questa nuova star del rock non esiste, cioè Bowie non era nessuno fino allora, ma viene presentato alla stampa, viene presentato alla televisione, viene presentato al mondo la nuova star del rock, come già se fosse Ziggy Bowie la nuova star del rock. In realtà non era nessuno, però il meccanismo, no, l'intuizione geniale, cioè nel gioco dei rapporti con il mass media, con le televisioni piuttosto che con i giornali, che all'epoca avevano una grande importanza. Adesso i giornali musicali contano un cazzo, però all'epoca i giornali di musica, specializzati di musica, contavano, e contavano tanto per far diventare qualcuno all'interno del music business. Loro creano questo personaggio, creano questo mondo salvifico in qualche modo, lo presentano, cioè vendono la pelle dell'orso prima di averla catturata. Questo è il grande gioco che fanno Tony DeFries e David Bowie, e ci riescono. Cioè, l'intuizione alla fine poi riesce, perché Bowie nel giro di un anno o poco più diventa Ziggy Stardust in qualche modo, che poi dopo alla fine i due personaggi si confondono talmente tanto che non si sa più dove inizia Bowie, dove finisce Ziggy Stardust e viceversa. E Bowie inizia ad andare in giro con la limousine, cioè uno che non ha un soldo in tasca, inizia ad andare in giro con la limousine, inizia a contornarsi di guardie del corpo, cioè si presenta al mondo come Ziggy Stardust, come il salvatore, la nuova star che è venuta a salvare il mondo e che è venuta a conquistare il mondo a son di rock and roll. Il giochino alla fine riesce, perché Bowie diventerà veramente la star che avevano sognato i tre, no? In qualche modo studiato un po' a tavolino questa operazione di lancio del personaggio. Il primo Bowie che va sulla copertina ancora non ha i capelli sparati rossi, è ancora biondo, c'ha ancora un po' il caschettino così, ma nel giro di poche settimane è Angela, è la moglie di Bowie, che incomincia lo porta dal suo parrucchiere, gli fa una testa tutta rossa, arancione, e arriva Ziggy Stardust da un altro pianeta. Allora, il discorso si chiude, vediamo alcuni video. Fammi vedere, direi Moonage Daydream, che è all'interno del disco, quando si presenta Ziggy al mondo, no? Quindi Ziggy si presenta, I am an alligator, io sono un alligatore, no? Che è un riferimento a una canzone rock and roll degli anni 50. Vediamo il video. Ora, il video è tratto, come molti dei video che andremo a vedere ora, dall'ultimo concerto all'Hammersmith Odeon del 73, quando Bowie poi chiuderà il ciclo di Ziggy Stardust. Quindi in qualche modo anche qui dobbiamo fare un piccolo sforzo e cercare di capire quali erano i primi concerti di il primo tour che fa Bowie dopo Ziggy Stardust. Cioè non parte nei pub, cioè Ziggy Stardust and the Spiders from Mars suonano nei pub davanti a 20 persone che sono lì e che sono entusiasti di Ziggy Stardust, e altri 30, 40, 100 che bevono birra, uno cagano neanche. Cioè Ziggy Stardust parte nei pub. Però nel giro di un anno e mezzo arriva poi all'apoteosi. Però la partenza naturalmente è quella dentro nei piccoli localini. Okay. Però quello che ci vediamo adesso è il Bowie e lo Ziggy Stardust nel massimo dello splendore. I'm a mama, papa, calling for you. I'm a space invader. I'll be a rock and roller, that's for you. Keep your mouth shut. You're smoking like Stewart alla chitarra. È Tom Brady. Allora, abbassa un po', ancora un po'. Allora, quanto tempo mi date ancora? Perché sono le 11:30. Che vuoi? No, ma così mi fa piacere. Come dicevo prima, insomma, questo personaggio Ziggy Stardust è un po' la sintesi di tante cose che Bowie ha vissuto e ha elaborato in quegli anni. Aleister Crowley, che prima abbiamo ascoltato Quicksand, è molto presente in questa canzone, no? Questo nuovo personaggio che scende appunto a salvare, questo nuovo messia che viene a salvare il mondo e a fondare una nuova chiesa, no? La chiesa dell'uomo in contrapposizione con la chiesa di Dio. Insomma, c'è tanto dentro questo Ziggy Stardust. C'è un momento in cui Bowie fa il botto. Si arriva al momento in cui Bowie, abbiamo detto che il tour parte nei pub, no? Davanti a 30 persone, eccetera, eccetera. Poi piano piano cresce, insomma, questo tour andrà in giro, poi dopo si lega ad Aladdin Sale, ma insomma va in tour ininterrotto quasi per 18 mesi, lo porta in Inghilterra, poi negli Stati Uniti. Insomma, c'è un momento preciso nella storia della musica inglese, in generale, ma specifica e particolare per Bowie, che è l'apparizione che fa il 3-4 luglio del 72 a Top of the Pops. Top of the Pops è questa trasmissione televisiva in cui passavano tutti i grandi, i più grandi personaggi, eccetera, eccetera. Ma la data del 3 luglio del 72, quando Bowie con gli Spiders from Mars si presenta a Top of the Pops, è diventata storica, a tal punto che c'è un libro alto così che parla solo di questi 3 minuti e mezzo di Bowie a Top of the Pops. Perché è così importante questa apparizione a Top of the Pops? E da lì in poi la storia per Bowie e anche per la musica inglese non sarà più la stessa. Facciamo un piccolo passo indietro. Pochi giorni prima Bowie aveva detto in un'intervista di essere omosessuale. Dichiara la sua omosessualità vera, presunta, chi cazzo se ne frega. Però anche quello è un grande colpo di teatro. Bowie è il più grande attore teatrante della storia dei rock. Se poi era vero che fosse omosessuale, no, non ce ne frega un cazzo. Però colpisce nell'Inghilterra del 72, fino a 5 anni prima, l'omosessualità era un reato nell'Inghilterra dell'epoca. Si andava in galera solo, no? Quindi Bowie dichiara al mondo la sua omosessualità, dice: sono omosessuale, bisessuale, lo sono sempre stato fin dai tempi di David Jones, il suo vero nome. Questo crea un grande subbuglio. Quando Bowie pochi giorni dopo si presenta a Top of the Pops, l'Inghilterra si ferma, cioè i ragazzi inglesi, cioè in qualche modo, ora non voglio fare un discorso sociologico, perché non sarei neanche capace, però in qualche modo questo Bowie apre una breccia che nessuno aveva mai aperto in maniera così plateale a livello di un personaggio pubblico, no? questa dichiarata omosessualità. E il video che adesso andiamo a vedere, che è appunto la performance che Bowie e gli Spiders from Mars fanno a Top of the Pops, è straordinario sotto ogni punto di vista. Io vi invito a guardare Bowie e non ascoltare, perché poi la canzone l'avete ascoltata 1000 volte, ma dovete vedere come si muove Bowie, cioè la capacità che ha Bowie di catturare la telecamera. E c'è un momento che è diventato storico quando Bowie abbraccia Mick Ronson, no? Che lo porta al microfono per farlo cantare, che non è nulla. Però in quel momento, in quella Inghilterra, dopo quelle dichiarazioni, con un Bowie che è veramente la persona. In questo video Bowie impersonifica chiaramente l'insegnamento di Aleister Crowley. Lui è sicuro di se stesso, ha il potere supremo di se stesso, sa quello che fa, sa quello che vuole e sa come arrivare a ottenere quello che vuole, e lo fa con gli sguardi, lo fa con la bocca, lo fa con i movimenti delle mani, quando si abbraccia, quando avvicina Mick Ronson. E tutto questo all'interno di un video e di una presentazione. Lì bisogna anche dire che il video è girato in maniera molto moderna, cioè non è un video statico, no? Come lo era negli anni 70, in cui si riprendeva il cantante rock a Top of the Pops che cantava e quegli altri ragazzetti facevano gli stupidi intorno. Cioè anche da un punto di vista della ripresa cinematografica, della ripresa televisiva, è qualcosa che va oltre. E lì fa il botto. Bowie li spacca, due giorni dopo farà un concerto straordinario all'Odeon, al Rainbow di Londra, e da lì in poi niente, Bowie non tornerà più indietro, insomma, lì veramente tocca il vertice, cioè arriva dove voleva arrivare, ma ne è consapevole. La grandezza di questo video, l'importanza di questo video è che lui lo sa, ancora non è il Bowie che sarà 2 minuti, 3 minuti e mezzo dopo, ma lui già lo sa. Allora, non mi ricordo che numero è, aspetta, penso il foglio. Il foglio Starman 11. Ah, vai. Sì. Chitarra 12 cordi, colore azzurro, vestito da Arlecchino, ma Bowie sbaglia. E lo senti qui anche per tutti gli anni, eh? What time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some get it on rock and roll, he said. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of fade. That was no DJ, that was Hazy Cosmic Jive. Dal sottofondo, tanto non c'è il video qui. Mi piacerebbe ancora farvi ascoltare altre canzoni da Ziggy Stardust, ma non ce la facciamo. Avevo previsto di parlare appunto di Lady Stardust, che è la canzone che Bowie dedica in qualche modo a Mark Bolan. Il rapporto fra Mark Bolan e David Bowie è un rapporto che andrebbe approfondito. Bowie ha sempre avuto un debito di riconoscenza enorme verso Mark Bolan. Bolan fino a 3 minuti e mezzo prima della fine di Starman era la star del rock and roll, era la star del glam, aveva portato in classifica nel giro di pochi mesi 4 singoli che avevano spaccato. Era veramente il principe della scena glam. 3 minuti e mezzo, quando finisce quel video lì, volan. Seconda posizione. Van seconda posizione. Bowie comunque è fortemente riconoscente a Bonham. Come dicevo prima, alla fine Bowie è un uomo di grande cuore, no? Sembra uno spavaldo, poi magari anche una grande testa di cazzo, però in fondo ha avuto sempre l'onestà di dare merito a coloro che in qualche modo l'hanno, no, gli hanno dato una mano direttamente o indirettamente. Questa canzone, Lady Stardust, che è una grande ballata su Ziggy Stardust, è dedicata a Mark Bonham. In realtà poi se si va a leggere il testo c'è Mark Bonham, ma che c'è anche lui, secondo me, no? Quando parla delle femmine, no? Del femme fatale, quando parla di lui che è un piccolo culto. In realtà Mark Bonham non era un piccolo culto, Lou Reed era un piccolo culto, Velvet Underground era un piccolo culto, Mark Bonham era già la superstar, quindi insomma c'è un po' di Lou Reed e un po' di Mark Bonham. Però il fatto che la canzone fosse dedicata a Mark Bonham è assicurata dal fatto che durante il tour di Ziggy Stardust e durante la canzone Lady Stardust, non l'ho trovato purtroppo il video, veniva proiettata la foto di Mark Bolan sul fondale degli Spiders for Mark, che hanno quella S che te hai visto, che i Kiss l'hanno rubata. Ah sì? Cioè, l'idea della S, che poi dopo i Kiss l'hanno presa dalla S degli Spiders for Mark. Io sapevo che le doppie S di Kiss, siccome Paul e Jen sono ebrei, è una cosa contro il nazismo, no, per loro. Ma tranquillo che erano a vedere questo concerto. Sì, sì. No, lui è un fan, un grande fan di Kiss. mi piacerebbe insomma approfondire questo argomento qui, ma non abbiamo tempo. E neanche farvi ascoltare Rock and Roll Suicide, che è la canzone che chiude l'album, che chiude con questa grande ballata esistenzialista in qualche modo. Serata. E che ci fa? Anche di David Bowie. Riparti da capo, fai tutto quello che mi hai fatto stasera. E anche si fa. Continua avanti. Domani sera tutti quadri. Acceleri velocissimo e fai 10 canzoni in 5 minuti. No. Allora si chiude a Ziggy Stardust. 10 canzoni da 15 minuti in 5 minuti. Si chiude qui? Faccio la seconda parte con Palla di Insegna. Non ce la farà mai andare ad arrivare a Diamond. No, ce la faccio no. Forse alle 4 di notte. Come devi dire. Bisogna arrivare a Diamond. A me serve una prima. Anche rimanere qua fino a domani. Allora si chiude qui. Allora si chiude qui. Devi fare come devi sentire. Lo so. No, si chiude con Rock and Roll. Allora, chiudiamo con Rock and Roll Suicide. La seconda parte sarà pubblicato sul Corriere della Sera della Repubblica. È tutto pronto. Ma il fratello è morto. Come? Il fratello è morto. Sì, dopo è morto, sì. Ma negli anni 90, credo, sì. No? O a fine anni 80. René, ma al tempo che scrisse Lady Stratus, Mark Bonham era sempre vivo? Era già morto? Cioè, no, era vivo. Era sempre vivo? Sì. Mark Bonham muore nel 77. Ah, un incidente. Sì. Così concludiamo. Che non muore, guidato da Gloria Jones. Che non muore. Ma allora non so, dopo quello è un problema, si fa allora, aspetta, fagli dire 700 parole, fammi dire le ultime 700 parole. No, voglio dire che la vena creativa del Bowie di quel periodo è talmente fertile che lascia fuori da un disco come Ziggy Stardust canzoni come Velvet Goldmine, canzoni come Jonah, I Am Only Dancing, canzoni come All the Young Dudes, che regala il Mott the Opel, che ne fanno una canzone meravigliosa, una versione forse ancora più bella di quella che fa Bowie, secondo me. Chiaramente è strepitoso. Cioè, ci ha parlato. Sì, fantastico. Cioè, è uno che in quel momento scrive canzoni... Come piovesse. È una più bella dell'altra. Rock and Roll Suicide, che è la canzone che chiude l'album e che chiudeva tutte le canzoni, che chiudeva naturalmente il tour di Ziggy Stardust, la canzone appunto che chiude l'album con questo finale molto drammatico, fortemente ispirato agli esistenzialisti francesi, Jacques Brel è un nome che ricorre spesso, no, nelle interviste di Bowie, amava, e durante il tour di Ziggy Stardust cantava My Death di Jacques Brel. che era stata portata in inglese da Scott Walker, no? E poi cantava Amsterdam, insomma, in quel periodo gli piaceva molto Jacques Brel. Gli piaceva molto il gusto francese, europeo di scrivere le canzoni, queste ballate un po' molto legate appunto ai temi della morte. E nel agosto del 73, penso, ora potrei sbagliarmi, forse era luglio, chi se ne frega, anche quello, Bowie decide di chiudere con Ziggy Stardust. Cioè, poi le decisioni per cui chiude con Ziggy Stardust sono diverse. Uno, perché se noi vogliamo vedere il lato romantico, diciamo così, perché Ziggy Stardust, cioè il personaggio Ziggy Stardust l'aveva completamente sopraffatto, cioè Bowie aveva perso completamente la testa, non sapeva più chi cazzo è. Cioè, Ziggy Stardust non era più solo sul palco, ma anche quando camminava per le strade, ormai Bowie era Ziggy Stardust, capito? Quindi decide alla fine di chiudere con questo rapporto così simbiotico, cioè, con questo personaggio. E quindi questa è la lettura un po' romantica, quella che vogliamo dargli noi in qualche modo. Dall'altra parte si può anche dire che forse si era anche un po' rotto le scatole, Bowie forse era già oltre, insomma i motivi per cui Bowie decide di chiudere questo personaggio, e lo fa con questa ultima canzone, la presento, lo dice, no? Insomma, questa è l'ultima volta che suonerò dal vivo, poi in realtà dopo due mesi era nuovamente a suonare dal vivo, ma non c'era più Ziggy Stardust. C'era qualcosa che assomigliava a Ziggy Stardust, ma non era Ziggy Stardust. Lo vedremo la prossima volta. insomma, in realtà secondo me, e anche secondo molti studiosi dell'arte bowiana, anche questo è un grande colpo di teatro, quello di chiudere con Ziggy Stardust. Cioè, no, non poteva che finire così. Con un grande colpo di teatro, però lo devi mettere dall'inizio, perché c'è lui che appunto dice questa frase che poi è diventata famosa, che è l'ultimo concerto che fa. Quindi chiudiamo con questo Rock and Roll Suicide part la parte 1, e poi vediamo se si farà la parte 2 prossimamente, perché abbiamo ancora due grandi dischi. Due, anche tre, se vogliamo ci mettiamo anche più in house. Se ne hai un altro un'altra sera, amico mio. Visto che ha parlato delle V, possiamo a questo punto che abbiamo, ci possiamo allargare un po', siccome non l'avevamo preso in considerazione stasera. Si fa anche più. Vada, grazie. Everybody, this is me, the one of the greatest tours of our life. We really, of all the shows on this tour, this particular show will remain with us the longest, because not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. Time takes a cigarette, puts it in your mouth, pull on your finger, then another finger, then your cigarette. Well, the wall to wall is calling, it lingers, but still you forget. Oh, you're a rock and roll suicide. You're too young to lose it, but you're too old to lose it. And the clock waits so patiently on your song. When you walk past the cafe that you can't eat, when you've lived too long. Oh, you're a rock and roll suicide. Now the ship breaks the starling as you shuffle across the room. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sunlight blast your shadow. Don't let the milk flow out of mind. There's no natural religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. C'è la torta, c'è la torta. Non so, uomo.